15.01, Tracce di Cinema, Radio Onda Rossa 87.9. Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di questa radio indipendente e libera dal 1977. Un saluto particolare ai compagni e alle compagne che in questo momento si ascoltano privati della loro libertà. Oggi Tracce di Cinema attraversa le sonorità e le notizie, le informazioni di un film che è proprio una chicca, secondo me, un film del 2001, qualche anno fa, passato così un po' in sordina rispetto al cinema mainstream a cui siamo abituati e di cui spesso abbiamo anche raccontato storie e sentito colonne sonore, non ci è neanche dispiaciuto. Un film australiano, piccolo, piccolo, piccolo, un gioiellino del cinema underground indipendente, quando poi proprio, quando si hanno proprio pochi mezzi, si tirano fuori le cose migliori, no? E questo, per questo film è andata proprio così, anche se Federico mi guarda che non è proprio convinto. Beh, io l'ho molto amato. Parliamo di E morì con un falafel in mano, Australia, anno 2001, regia di Richard Lowensen. David, con la colonna sonora mi pare che ci sta, eh? È molto bella. Sì, ce l'andiamo subito ad ascoltare, partiamo. Questo è proprio un grande classicone, California Dreaming dei Mamas and the Papas. Compie non questa... l'avevamo mai avuto? Mi sa di no. Sì, l'abbiamo passato. Forse sì, per il grande freddo. Sì, forse può essere. Sì. Comunque, compie quest'anno 50 anni questo brano, è proprio decisamente un classicone. Un evergreen. Sì, e per questo film il protagonista Danny la suona con una chitarra e rappresenta proprio la transizione tra quando passa da una casa all'altra. E questo brano è proprio un misto di malinconia e di allegria e rappresenta bene lo stato d'animo di Danny. Che dire, Mamas and Papas hanno suonato dal 65 al 71, hanno fatto 5 album, numerosi singoli e ovviamente tutti conosciamo la versione italiana di questo brano uscita proprio nel 66, composta da Mogol e interpretata dai Dick Dick, Sognando California. Per quanto riguarda la colonna sonora, c'è da dire che ci sono molti musicisti australiani, Snog, Sonic Animation, Spider-Bite, Roland Howard e anche il famosissimo Nick Cave, che abbiamo già mandato in passato, e c'è anche Moby, più o meno questa qua, una bella colonna sonora. Che ne dici di questa musica australiana, David? Beh, ci sta un sacco di bella roba. Gli Snog mi piacciono tantissimo. In più ci sono tantissimi altri musicisti australiani che adoro, certo anche Nick Cave. Che gli vuoi dire? Ma invece di questo film, poi magari citeremo un pochino, racconteremo un pochino la trama, perché insomma è un film molto piccolo, passato, come dicevo prima, un po' in sordina rispetto al cinema, insomma, che si vede al cinema, ha dei dialoghi straordinari. Purtroppo non siamo riusciti a trovare degli estratti, se non uno che ha trovato Federico, che vi faremo sentire fra poco, però ci sono frasi meravigliose all'interno della sceneggiatura. Per esempio, scusa Taylor, ma questi rinforzi che hai chiamato non è che per caso sono leggermente nazisti? Beh, preferisco definirli politicamente emarginati, sono un uomo morto, forse stai solo dimagrendo. Ed è così, è tutto un nonsense, è veramente un delirio. È la storia di questo Danny che si passa da una casa all'altra, inseguito dai suoi compagni di casa. È molto divertente la sceneggiatura, è ben fatta, è ben scritta, è veramente potente, anche se poi è tratta dal libro, dal romanzo di John Birmingham, ha poi un suo essere a prescindere proprio dal libro. È proprio ben strutturata ed è un film ben scritta. Ed è un film difficile perché, insomma, vive soprattutto della sceneggiatura, perché è tutto girato in interni tranne in due piccole scene, mi pare solo due, che sono invece in esterno. Quindi, come si sa, i film che hanno soltanto una location di svolgimento sono più difficili, e quindi la sceneggiatura deve essere più forte, e in questo caso nel film lo è, ed è anche molto divertente. Cioè, è una filosofia un po' spicciola, però fa ridere. Tutta, io ve lo consiglio, sì. Come dicevi, Fede, scusa? Tutta di dialoghi, sì. Does she's the one the ocean drives. Everything was made for you and me. Yeah, all of it was made for you and me. So let's take a ride and see what's mine. Say la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Things from under the glass. He looks through his windows tag. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. Yeah, all of it is yours and mine. So let's ride and ride. State ascoltando la colonna sonora di E morì con un falafel in mano, e questa è una cover del noto brano The Passenger di Iggy Pop, che conosciamo tutti. Sir Iggy Pop. Sir Iggy Pop. E questo brano l'ha eseguito Roland Howard, che è un australiano. È un musicista australiano, è noto soprattutto per essere stato membro della rock band The Birthday Party, nel quale partecipava anche Nick Cave. E quindi amichetti. Però questa versione, diciamolo, non è ai livelli dell'originale. E io però vi consigliavo quella di Siouxsie and the Banshees. E che magari poi ce l'andiamo a sentire. Se no, ma poi anche durante la trasmissione potremo sentire per vedere un po' la differenza, no? No, invece, sempre pensando alle frasi di questo film, fatto di fattoni tossici, skinheads, poliziotti violenti, sette sataniche, femministe, teledipendenti, insomma un'umanità totalmente sballata, il cui esponente principale è il nostro Noah Taylor, il protagonista, che è Danny. Ci sono tantissime frasi, secondo me, che resteranno nella storia delle frasi, proprio delle citazioni del cinema, e una di queste è detta proprio dal protagonista, che è molto mite, molto tranquillo, un po' triste, un po' malinconico, e dice proprio così: I need to feel loved, gli dice una ragazza, e lui gli risponde: I need to feel. E questa è una delle tante frasi, secondo me, bellissime di questo film, che è tutto da scoprire, perché è veramente una chicca di cinematografia, come se ne vedono poche. Sapete, una volta un tizio mi ha detto che l'uomo può farlo fino a 4.000 volte prima di esaurire le scorte. Che stronzata del cazzo. Casomai 40.000. Te le sogni, moscerino. Fatti il conto. Due volte al giorno, 7 giorni alla settimana, perché sono 40 anni? Due volte al giorno. Ma che cazzo lo fa due volte al giorno, cazzo? Io, quando stavo con Jess. Per due volte al giorno. Io e Jess arrivavamo a Cacina. Per 40 anni. E dopo una notte di sbornia, è il giorno di Natale? Come cazzo fai a fartene 5 il giorno di Natale con tutta la famiglia seduta a tavola intorno al tacchino? Recuperi di notte con la tua donna. Donna? Quale donna? Tu sei senza un cazzo di donna da almeno 6 mesi. Io posso avere tutte le donne che voglio. Conosco un trucchetto che le fa delirare. Cosa intendi esattamente per delirare? Delirare? Dare i numeri, sballare, andare fuori di testa, delirare. Cos'è? Una specie di mossa segreta? Tipo come una rotazione laterale. Non posso dirvi niente. È una cosa molto speciale, potrebbe valere un sacco di soldi. Vediamo un po' di chiarire le cose. Tu hai 20 e passa anni. Sei senza lavoro, senza soldi, senza un cazzo di prospettive. Da più di 6 mesi non ti si vede nei paraggi di qualcosa che anche solo vagamente somiglia a una rappresentante del gentil sesso. Eppure te ne stai seduto qua a raccontarci che conosci un trucchetto speciale per far delirare le donne. Visto che sei così bravo a farle delirare, allora che cazzo ci fai qui con degli sfigati come noi? Nothing. E questa è un'altra cover australiana, perché questo gruppo, stiamo parlando della colonna sonora di Emory con Falafel in mano, questo gruppo si chiama The Paradise Motel e hanno eseguito una cover del noto brano Drive, il noto brano degli anni 80 dei Cars, che di cui ha fatto anche io continuo a preferire, non sono tanto sicuro. Comunque c'è anche un'altra versione, ne hanno fatto delle altre versioni Ziggy Marley e i Deftones. E questo gruppo e Paradise Motel sono diciamo una rock band che viene definita anche sperimentale per certi versi, perché ha sperimentato con varie sonorità particolari. La loro caratteristica principale è di usare due chitarre, spesso due chitarre, una elettrica e un'acustica insieme. No, non lo fanno tutti i gruppi? Non sempre. No? È una cosa, io pensavo che fosse una cosa normale, cioè l'ho sentita, lo fanno un sacco di gruppi. Non è che è una cosa così speciale, chi si credono di essere con questi Paradise Motel? No, vabbè, sto scherzando. Bene, questo film, la trama, la ricordiamo? Che dici, Fe? La ricordiamo? La ricordiamo. Allora, si apre tutto con la morte di Flip, che viene rinvenuto da Danny seduto davanti alla TV con un falafel in mano. E da qui sì, il film parte e inizia a raccontare gli avvenimenti del passato che percorrono un arco di tempo di 6 mesi. Narrano la storia appunto di Danny, che è un aspirante scrittore che vive a stenti, costretto suo malgrado a condividere case in giro per l'Australia con inquilini improbabili. Cambia, mi pare, 48 case, no? Il film è diviso proprio in capitoli, proprio scritti a macchina, se ricordo bene, perché non l'ho potuto rivedere, ahimè. La mia vita caotica me lo ha impedito, ne avrei avuto tanta voglia, perché è un film che ai tempi mi è piaciuto tantissimo ed è divertente, perché insomma questa enorme insieme di personaggi è come un balletto, è come una coreografia di scoppiati, però ognuno balla da solo e però è legato a tutti, soprattutto a Danny, che non viene mai lasciato in pace, perché nei vari suoi spostamenti di casa in casa viene sempre seguito dal resto della casa precedente, insomma della casa iniziale, e viene perseguitato in qualche modo ed è fantastico, insomma è questo gruppo di personaggi, questo gruppo di amici così diversi fra loro, sono proprio un insieme, una summa degli esseri umani in cui ci ritroviamo poi alla fine un po' tutti, chi per una cosa o chi per un'altra, insomma sono tutte situazioni che abbiamo alla fine vissuto tutti, almeno noi che abbiamo una certa età. Questo brano a una sonorità soft e avvolgente, tipico di Moby. Questo brano si chiama Everloving. E Moby, leggo qui dalle preziose notizie di raccolte da Ottavia, che il suo nome originale è Richard Melville Howe, è statunitense, cantante, musicista e compositore, e lo pseudonimo glielo dà la madre, Moby, in onore del prozio Herman Melville, autore del celebre romanzo Moby Dick. Ecco, questa non hai sapevo. Capito che radici che c'ha Moby, e che diventa famosissimo nel 90, leggevo, anzi nel 91, che con il suo singolo che era il quarto, Go, che ha un successo enorme, più di 1 milione di copie vendute fino ad oggi, se, insomma. Però ha fatto un sacco di cose, ha fatto il DJ, ha suonato in vari gruppi punk, un gruppo si chiama addirittura Vatican Commandos. Tra l'altro come DJ ha fatto anche delle versioni remixate di altri autori. Sì, sì, insomma, ha attraversato tanti stili, la techno, la musica dance, ambient. Beh, e poi è, però è cattolico, e questo non va a suo favore. Vegano, questo invece diciamo che pareggia poi il colpo basso della sua scelta. Si è anche schierato politicamente anti religiosa. Ha partecipato alla campagna anti-Bush del 2004 e anche si è battuto spesso per la fruizione libera della musica, ad esempio contro le condanne esemplari che davano nei primi anni 2000 a chi scaricava la musica illegalmente, e lui si schierò. E mo c'ha una sala da tè a New York. Ha aperto la sala da tè. Un po' radical shit. Sì. No, stavo notando come questo brano e come anche quello che seguirà dopo dei Negress Verti in questo film sono due pezzi di questi due di queste due firme più brevi, strumentali e anche meno conosciuti. Eh beh, però dei Negress Verte c'è tanto da dire, sono stati un gruppo veramente che ci arriviamo. Nel cuore ce l'abbiamo in questa radio. E questi erano appunto le Negress Verte, il brano Le Vals. E che dire di questa grande band, che c'è un episodio che raccontano, cioè che alla fine degli anni Ottanta, d'estate, una delle tante serate noiose della submetropolitana di Parigi, alcuni sbandati di origine nordafricana si presentano in un club della Rue d'Orc totalmente ubriachi e con i capelli tinti di verdi. Si scatena una rissa e la polizia li sbatte fuori in malo modo, urlando loro: sortedi sì, le Negress Verte, ossia fuori di qui, negri verdi. Perché tutto quanto nasce da questo negri verdi, nasce, è un insulto razzista che è stato preso dai francesi, perché c'era questo artista russo, mi pare, che fece un ritratto di una ragazza molto simile alla Gioconda, una ragazza francese, però tutto scarabocchiato di verde, che però ebbe un grandissimo successo e vennero stampate le solite merchandising, le magliette, rispetto alla Gioconda molto maggiore. Quindi i francesi lo odiarono e chiamarono questo questo quadro, la negra verde, e venne poi usato questa forma, questa frase dispregiativa per come una forma di razzista, per un insulto verso gli immigrati, ecco. Loro rigirano invece la cosa e lo usano questo modo di dire per definire loro stessi, ovvero le negres verte. Eh sì, perché poi le negres verte sono tutti figli di immigrati, la maggior parte sono algerini, quindi insomma hanno vissuto anche l'emarginazione degli algerini nelle banlieue parigine, insomma ne abbiamo parlato tanto anche qua, riferendoci, pensando all'odio di cui abbiamo analizzato il film e le musiche, insomma è un fatto che esiste, che esisteva e che esiste tuttora, e le negres verte sono stati grandi rappresentanti in questo, hanno proprio rivendicato l'orgoglio di immigrato, di straniero in una terra che poi era la loro, perché insomma la Francia, senza lo sfruttamento che hanno fatto dei popoli africani, non forse non sarebbe stata quello che è oggi, ecco, perché la forza lavoro è soprattutto quella. Nonostante sono autodidatti, comunque la loro sound è stupendo, molto particolare, ed è caratterizzato da suoni tradizionali mescolati al rock moderno. I loro testi sono pieni di rabbia, melanconia e parlano di dolori, di soprusi, di ingiustizie, nonostante la musica sia molto allegra o caciarone. Sì, poi sono tutti autodidatti. Io ho letto che hanno esordito la prima esperienza con i loro strumenti, e poi il loro frontman, diciamo, chiamiamolo così, ma secondo me lui non sarebbe stato contento di questa definizione, nel 91 con un loro album che è stato poi la loro consacrazione, che si intitolava La Famille Nombreuse, ha iniziato il suo viaggio nell'eroina, con la dipendenza dall'eroina, che hanno avviato un po' le sue capacità di scrittura, che erano geniali, perché lui scriveva questi testi in argot arabico, cioè l'argot è un particolare modo di scrivere messaggi in modo da renderli criptati e comprensibili solo a un determinato gruppo di persone, e su questo giochino verbale lui scriveva questi testi geniali. Era talmente tanto geniale che un rappresentante della politica francese, il ministro della cultura francese dell'epoca, Jacques Lang, lo definì uno dei principali cantanti della sua generazione, capace di unire tradizione francese e canzone popolare in uno stile melodioso e originale. Il suo epitaffio lo vorrei ricordare, perché nel 93 è morto nel 93, ci ha lasciato nel 93, e poi insomma è finita un po' la storia anche dei Negres Verte con la sua morte. Il suo epitaffio, tratto da un'ultima strofa della chanson de Vincent di Jacques Brel, recita: de foire en foire, de verre en verre, de boire en boire, j'ai mort encore à plein dents, je suis un mort encore vivant. E questo ci porta all'ospite di questa settimana, i Negres Verte ci portano a lui. Steve Della Casa, ben ritrovato su queste frequenze. Buongiorno ragazzi, ciao. C'è Ottavia che è felicissima della tua presenza. Anch'io di sentirla. Ti ho sentito il 15 maggio, che hai festeggiato qualcuno di mia conoscenza, mi ha fatto molto piacere. Beh, anche a me ovviamente, è una persona a cui volevo molto bene, come penso anche te, insomma. Ti ho sentito, mi sono emozionata, perché forse sei soli sempre gli unici, credo, ad avere questa sensibilità nei confronti di chi insomma ha fatto un cinema che non c'è più, ma insomma che è stato importante. Grazie. Ti ho pensato, ho cercato di memorizzare con la testa il numero, perché vi volevo chiamare, ma ero in macchina e non sono riuscita, quindi lo faccio ora. Colgo questa occasione che ci sei. Vabbè, va, chiusa parentesi. No, Steve, allora quest'oggi abbiamo scelto questo film 2001, un po' dietro nel tempo, una colonna sonora molto interessante, abbiamo sentito e stiamo sentendo soprattutto alcune cose che si ripetono, è il caso dei Paradise Motel, Nick Cave più in generale, comunque gran parte della colonna sonora è di musica australiana, e ci sono anche cover, insomma molto ricco, dicevo prima, rispetto ai Negres Verte e a Moby, dei pezzi più brevi, strumentali e meno conosciuti rispetto, insomma, agli standard a cui siamo abituati. E per il resto, che mi dici tu, Steve? di questo film, eh? Sì, come... Beh, è stato un piccolo caso, perché è un film, morì con un ferafelle in mano, è un film sul quale non si puntava tantissimo, tant'è vero che quell'anno lì ha poi vinto il premio, credo, della giuria al Festival Indipendente di New York, ma non fu preso in considerazione troppo nei festival grandi. Invece fu un vero successo e portò a successo anche il libro da cui era tratto, che uscì, sì, in Italia, credo, per Fandango, non mi sembra, se non vado errato. Sì, e poi il film è stato pure prodotto da Procacci. Sì, infatti, diciamo che l'operazione fu abbinata e sicuramente la colonna sonora ha avuto un ruolo molto, molto importante. Dentro il film poi ci sono anche delle cose molto divertenti, per esempio a un certo punto ci sono i protagonisti che discutono, mi sembra che sia proprio all'inizio del film, discutono se a loro volta i protagonisti delle Iene di Quentin Tarantino sono no gay, insomma, è uno di quei dibattiti tra amici che un po' colorisce il lungo flashback di cui è fatto il film, no? Perché il film appunto parte dalla morte di una persona e si racconta quello che è successo prima, un po' come in Viale del Tramonto, insomma, sì. Fanno poi scoprire che sono successe veramente tante cose. E la colonna sonora, che voi ricordavate, ha veramente di tutto al suo interno, va dalle Negres Berta, Nick Cave, ma c'è anche la Dolce Vita, ci sono, se ben ricordo, anche addirittura i Mamas and Papas, sì, che fanno la famosa California Dreaming. Insomma, ci abbiamo aperto, sì. Ah, ecco, veramente c'è di tutto lì dentro, sì, una di quelle colonne sonore che quando uno c'ha il disco se lo tiene ben stretto. Senti, Richard Lauenstein l'abbiamo perso per strada, poi, che tu sappia? Che io sappia, me lo chiedevo proprio quando mi avete avvisato che abbiamo parlato di questa cosa qui. Richard Lauenstein è l'autore del film, credo che non abbia, a meno che io sappia, non ha fatto più molto. Invece il racconto di Birmingham, a sua volta, che è per l'appunto australiano, come gran parte della musica del film stesso, ha fatto un altro romanzo che si chiamava Blocchi di fumo e che era uscito qualche anno dopo, non più per Fandango ma per un altro editore. Però insomma non, anche lui insomma è un autore relativamente giovane. Perché credo sia nato negli anni 60 e quindi anche lui non è che abbia fatto molto dopo quel successo editoriale da cui fu tratto un successo cinematografico. Oh, Steve, tra l'altro ho scoperto proprio in trasmissione, grazie alle ricerche di Ottavia, che Moby si chiama così perché il suo prozio è Melville. Fantastico. E la mamma lo ha soprannominato Moby. Ma pensa, io mi sarei fatto soprannominare Acab, mi piaceva di più, però anche per via dell'acronimo ben noto che sta gira per i muri romani e non solo romani, come no. Sì. Senti Steve, più in generale il cinema australiano da noi arriva sempre con molta difficoltà. Ma sì, c'era stato il caso di Peter Weir e poi di George Miller, no? Sì. I due nomi che hanno un po' sfondato tra gli anni 70 e gli anni 80. C'è stata Jane Campion, che anche lei ha avuto un periodo di grande fulgore, ma poi anche lei è tornata un po' nell'anonimato, insomma. Ma sono più che altro casi isolati. Diciamo che il cinema australiano è considerato, forse anche un po' a ragione, una specie di succursale del cinema inglese, cioè nel senso un cinema di fattura molto, molto raffinata, molto curata, con una buona recitazione, una fotografia perfetta, ecco, forse un po' leccatino e un po' perbenino anche quando tratta argomenti un po' scabrosi, forti e così via. Non è un cinema a cui viene riconosciuta una sua personalità autonoma. Sì, sì. La maledizione del Commonwealth colpisce ancora. Insomma. Sì, anche perché poi i registi che hai citato di maggior successo sono quelli che poi se ne vanno in America. Via, certo, sì, certo. Però va detto che in Australia girò anche un film Mick Jagger, I fratelli Kelly, per la regia di Tony Richardson, era un film credo del 71-72, e lui è una specie di western australiano, lui è un ribelle australiano, protagonista di quel film che non ebbe grande successo, ma di cui allora si parlò molto. Senti, Steve, invece Noah Taylor, insomma, secondo me è un grandissimo attore, è bravissimo con queste sue questa sua fisicità magra, questo viso spigoloso, questi occhi un po' scavati, mi piace tanto, ma insomma, dopo Shine, in cui lui ha interpretato il protagonista da ragazzo, mi pare, poi insomma non ha avuto una grande carriera, ma perché? No, anche lui, che non lo so. Lì però bisogna, è forte, no? Sì, però bisogna sempre fare una tara, che è questa. L'Australia produce tantissime serie TV, tantissimi film per la TV che da noi non arrivano. Sì. E molto spesso alcune filmografie che sembrano interrompersi in realtà trovano sfogo lavorativo e forse anche artistico in quella produzione lì, che da noi proprio arriva pochissimo. Quindi in realtà prima di darlo per desaparecido bisognerebbe consultare bene quel settore produttivo. Io sono rimasta nelle mie ricerche, sono rimasta che le ultime cose che ha fatto sono nel 2012 un film scritto da John Hillcoat e Nick Cave che si chiama Lawless, e nel 2014 è nel cast del thriller Predestination con Ethan Hawke. Io trovo che è un peccato che un attore così venga trattato così. In quei casi a volte conta anche molto che agente hai e quanto tu stesso ti proponi. Forse dobbiamo pensare a lui. Steve, che dici? Ti facciamo da agente? Pensiamo un po' a lui. Senti Steve, negli ultimi tempi abbiamo scelto anche come colonna sonora quella di Stonewall, che ci è piaciuta veramente molto. Bellissima. A tutti e tre. E, per cui, visto che comunque è un anno, è un anno solare che non ci sentiamo a Tracce di Cinema, volevo sapere se nell'ultimo anno c'è stato qualche film del quale le musiche ti hanno entusiasmato in qualche modo. Sinceramente, proprio una cosa che dovessi dire mi è rimasta impressa da morire, sto ragionando un attimo, forse la cosa musicale che più mi è rimasta impressa è la colonna sonora, in particolare la partitura operistica che Ennio Morricone ha scritto per l'inizio del film di Tarantino, ecco. Quella specie di omaggio a Morricone che Tarantino fa proprio con un vero e proprio concerto, una ouverture con la quale apre il film, credo che sia musicalmente la cosa più bella che ho visto quest'anno. Del resto Hateful Eight è anche il film che mi è piaciuto di più, quindi quindi rientra, ci rientra, siamo in casa, eh? Steve, allora è stato nuovamente un piacere e speriamo di risentirci presto. Sicuramente ci sentiremo per le cinquine dell'anno 2016, ma chissà, magari anche in altre occasioni. Quando volete, sempre con piacere. Ciao ragazzi, un abbraccio, ciao ciao. Texture like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress, through the age ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Brano degli Stranglers, Golden Brown, di che parla questo brano? Parla di eroina, ovviamente. Golden Brown, Golden Brown, tipo di eroina. Poi la anche band del Marmite hanno detto. Sì, che vabbè, loro provano a dire che parlano di una marmellata. Ma a me pare oppure, strano. Oppure anche il Cornwell, il cantante e compositore, è intervenuto in merito a questa questione e ha voluto specificare la canzone si svolge su due piani differenti. Da un lato si riferisce all'eroina, ovviamente, e dall'altro anche a una ragazza. Comunque, vabbè, rimane comunque la musica. Comunque, un amore è anche un po' un'eroina, no? Una dipendenza. Non lo so. Tristezza. Senti, invece questi Stranglers, non lo so, sono dei pezzi di merda, David. Questo non lo sapevo, non li conosco bene. So che sono della metà degli anni 70, che inglesi fanno punk rock, anche se fanno altre, anche vengono considerati il loro ascolto dagli esperti in musica, anche non ovviamente usando le tastiere e sonorità di questo tipo, new wave e anche psichedelici. Comunque loro invece si amano definire punk rock. Mi dicevi, Ottavio? Ma invece no, hanno scritto dei testi proprio che trattavano di violenza contro le donne. Andiamo bene. E tanto che ci sono state delle grandi proteste che sono venute dal movimento femminista, e poi ci sono stati i testi di loro album che avevano allusione al razzismo. Perché il brano è bellissimo e fa parte di questo loro album che si chiama La Follia, che ha avuto un grande successo proprio grazie a questo brano, perché poi in effetti loro non sono stati poi così famosi finché non hanno scritto questo pezzo. No More Heroes. Se non proprio negli ambienti di destra, parliamoci chiaro, questi sono fascisti, quindi non ci piacciono gli Stranglers, ma Golden Brown gliela salviamo, ma per il resto sono proprio cancellati, ci fanno cacare. Proprio un grande, bello, bellissimo brano, un onirico, un sogno, un trip. Sono gli Snog, questo gruppo australiano, una grande scoperta, e questo brano si chiama Human Germ e dice praticamente che tu, come la vedi, come te giri, se guardi la terra dall'alto, gli umani sono come un'infestazione della terra. Vabbè, non tutti però. Sì, ma il risultato è quello comunque. Comunque questo film è stato dedicato dal suo regista a un grande esponente della musica, Michael Hutchence, leader del gruppo In Excess, morto suicida all'età di 37 anni nel 1997, grande amico del regista che ne ha curato molti videoclip. E l'ultima piccola cosa che vi voglio raccontare è che curiosamente c'è un dettaglio agghiacciante nel film. Fede, proprio all'inizio del film, sì, c'è una scena in cui si vede una mazza da golf colpire un rospo, e questo potrebbe essere. Però in Australia aveva, questa è una cosa vera, è una cosa vera. Perché nel libro non c'è, però nel film c'è. Il film è ambientato in Australia, a Melbourne e Sydney, in anni in cui l'isola era invasa dai rospi delle canne e andava di moda il cane toad sport, uno sport amatoriale da svolgere nel proprio giardino che consisteva nello sterminare gli infestanti anfibi con mazze da golf. Dopo gli stranglers scopriamo un'altra cosa terrificante, una cosa ghiacciante. Ma che paura questi australiani, ma perché non fanno solo surf? Allora racconto, io il film sono niente. Non l'avevo visto all'epoca, l'ho visto adesso proprio perché ne avremmo parlato in trasmissione. È vero, durante il film ci sono loro che giocano a golf e spiaccicano i poveri rospi sulla parete esterna della casa. E il film, essendo un po' così, un po' no sense, io quando l'ho visto ho detto vabbè, insomma ci sta. Poi quando ho letto questa cosa ho detto no, vabbè, non è possibile. Gli australiani sono matti. Va bene, dai. Allora chiudiamo i saluti e chiudiamo anche con un bel autore, ma ce ne parlerà David. Dici tutte. Allora, intanto vi voglio ricordare che sabato 11 c'è la serata hardcore al Faro per sostenere la radio, Obofobic e tanti altri gruppi per ballare, pogare e sorridere e pensare, perché poi ho risentito un po' di testi, un po' di brani degli Obofobic che è veramente, cioè, balli e pensi, come diceva qualcuno. E quindi vi consiglio, anzi vi prego di venirci a trovare e di sostenere la radio e di venire a ballare con noi. Sabato 11 ore 22 inizia il concerto al Faro e poi centro sociale Il Faro al Trullo, via del Trullo 330. Eh sì, proprio lì. E vi anticipiamo anche la l'Onda Rossa Festa venerdì 17, sabato 18 giugno, doppietta. Ma ne parleremo anche giovedì prossimo. Doppietta, in trasmissione. Sì, ne parleremo, sentirete gli spottini. Quindi, insomma, sarete informati su tutti gli eventi della radio che sono fatti per sostenere questa radio libera, indipendente, senza padroni, senza padrini politici, senza pubblicità, e per questo ha bisogno di essere sostenuta da tutti coloro che possono attraverso una sottoscrizione al conto corrente postale 61804001 intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56001185 Roma, oppure attraverso un contributo attraverso il sistema telematico PayPal, che si può fare attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. Sostieni Onda Rossa, fatelo, c'è un crowdfunding, che sono tutte le notizie sul sito di Onda Rossa, tutto questo e molto di più, approfondimenti e tutti i podcast e le trasmissioni. Che dirvi, è indirizzo stato di un posta piacere per noi, speriamo anche per voi. Indirizzo di posta elettronica tracce di cinema@ondarossa.info. A giovedì prossimo dalle 15 alle 16 chiudiamo con L'ultimo, anche il più noto, l'ultimo brano più noto degli australiani, musicisti australiani, ovvero Nick Cave and the Bad Seeds, e il brano si chiama Into My Arms.